Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Succede sempre più spesso che le sceneggiature dei film vengano tratte dai romanzi e quando i film arrivano al cinema i libri tornano a scalare le classifiche. È quello che è successo per esempio con Educazione siberiana di Nikolai Lilin. La versione economica pubblicata da Einaudi è fra i libri più venduti grazie al film di Gabriele Salvatores che è uscito il 28 febbraio scorso. E visto che al cacciatore di libri i romanzi ovviamente non invecchiano mai, abbiamo deciso di tornare a parlare di Educazione siberiana riascoltando l'intervista che Nikolai Lilin ci rilasciò al Salone del Libro del 2009. Così ci descriveva la sua gioventù che veniva appunto raccontata nel romanzo. Si tratta di appartenenza alla società che faceva resistenza politica al regime sovietico. Per cui in Italia, come lei ha detto, ha suscitato tante polemiche perché nel mio libro io parlo di concetti chiamati criminali, ma io sempre parlo nel rispetto di società in cui questi concetti sono stati sviluppati, quindi nel rispetto di società transnistriana, sovietica e post-sovietica. Per cui è molto sbagliato di pensare e di legare questi concetti con concetti di criminalità come la vediamo qua in Occidente. Qua in Occidente criminalità, tutto quello che fa lo fa per guadagno. Lì si faceva la resistenza politica e si chiamavano criminali perché il regime in questa maniera diffamava la società che non voleva accettare il regime davanti a tutto il resto di società che formava prima l'Unione Sovietica e poi la Russia. Era una forma di autodifesa? Sì, era una forma di resistenza. Lei nel libro parla infatti di criminali onesti. Come diceva prima, appunto, nel mondo occidentale la parola criminale con l'aggettivo onesto suscita, sì, insomma, un certo turbamento. Sì, ma anche in Russia è una cosa strana, perché come detto prima, per diffamare questa società che non era società criminale ma società di gente che rispettava libertà e secondo me era molto avanti nel concetto di democrazia rispetto al resto del paese, il sistema governativo, per diffamarlo davanti a tutto il resto della società, l'ha chiamata criminale, l'ha fatto vivere in mezzo ai criminali e in certo punto queste persone si hanno autoproclamato criminali onesti per spaccare il concetto di criminalità. Hanno detto: va bene, ci avete definito criminali, lo siamo, però siamo criminali onesti e adesso vi facciamo vedere cosa significa. E quindi loro hanno praticamente divorato tutto il senso di criminalità, cioè loro erano persone che seguivano le codici molto profondi, codici etici, avevano una forte presenza culturale, tradizionale nella loro cultura, nella loro società, grazie a quale loro cercavano di sopravvivere, cercavano di resistere all'interno di tutto caos che ha formato il comunismo. Il criminale onesto, come viene definito nel libro, ha appunto delle sue regole ben precise. Che cosa è lecito e che cosa è illecito fare per un criminale onesto? Beh, intanto non esiste quasi discorso di illecito o non illecito. Cioè, criminale onesto, se si è chiamato così, vuol dire che lui ha un'idea. Per cui, criminale normale non ha nessuna idea, ma solo voglia di guadagnare e basta. Criminale onesto, cioè quello che lo erano i miei antenati, loro avevano un'idea e combattevano per questa idea. Cioè se mio nonno avesse possibilità di conoscere Che Guevara, per dire, senz'altro lo chiamerei criminale onesto. Però per esempio in Italia abbiamo avuto le Brigate Rosse, combattevano per un'idea eppure hanno ucciso. Che differenza c'è fra le Brigate Rosse o magari fra la mafia, che comunque ha un suo regolamento? Perché Brigate Rosse avevano una sfumatura politica. Cioè quello che io chiamo criminalità siberiana, comunità siberiana di criminali onesti. Loro non avevano idee politici, cioè loro non avevano idee di guadagno come la mafia, per cui non sono né terroristi né criminali. Loro una forma di società che cercava di vivere in maniera libera, rispettando le sue regole tradizionali e facendo resistenza armata a un regime che cercava di sopprimere loro esistenza. Per cui è molto dannoso di fare paragoni in questo caso, cioè bisogna prenderle così come sono. Infatti tutte polemiche intorno al mio libro nascono proprio quando le persone cominciano a fare i paragoni. Io sempre chiedo, anche per rispetto verso questa comunità che è scomparsa, perché io parlo di comunità che non esiste più e racconto anche il suo declino, nel rispetto di questa gente che non c'è più, nel rispetto delle loro memorie, io chiedo sempre di non fare paragoni, perché io ho vissuto questa società e non so con chi paragonarle adesso. Ogni tanto paragono loro spirito di resistenza a quello che era la resistenza in Italia, ma anche quello non è giusto di chiamare un concetto preciso, perché anche resistenza in Italia, per certi modi, per certe persone che l'hanno fatto, aveva questione politica, per altre no, altri cercavano di sopravvivere, e loro sicuramente somigliavano più a quelli che cercavano solamente sopravvivere, non seguivano nessuna via politica. Lei vive da diversi anni in Italia, si immaginava che un romanzo del genere avrebbe potuto, ecco, suscitare tutti questi turbamenti o polemiche? No, io sinceramente anche adesso sono molto tranquillo, perché devo dire che tutti questi turbamenti, tutte queste polemiche sono il segno di, a volte, maleducazione delle persone che li provocano, dall'altra parte di mancanza di educazione letteraria, perché il mio libro è innanzitutto un romanzo. Io non ho scritto un saggio storico, io non ho scritto un'enciclopedia, io ho scritto un libro autobiografico, l'ho definito autobiografico, ma è sempre un romanzo, per cui chi non è educato di leggere i romanzi deve riguardare completamente la sua educazione letteraria e affrontare questa cosa con serietà. E io definirei il mio libro anche come fiabe autobiografiche, per cercare di invitare tutte le persone che cercano di sviluppare le polemiche d'intorno, che stanno facendo le cose inutili, perché alla fine io ho raccontato questo libro con la mentalità di ragazzino di 14 anni, io non ho seguito nessun filo politico e nessuna idea di quelle che io condivido o sviluppo oggi. Io sono rimasto, scrivendo il libro, cercavo di rimanere nella mentalità di uno 14enne, per cui questo libro è una rivelazione di chi l'ha vissuto e nel momento in quale l'ho vissuto. Non volevo assolutamente parlare male di nessuno, se ho offeso qualcuno è perché per forza le cose stavano così, ma credo che è un romanzo come tanti altri. Senta, nel momento in cui lei ha ripercorso la sua storia, ovviamente ha dovuto ricordare anche delle cose molto dolorose, molto faticose. Oggi, guardando al ragazzino, insomma, che è stato, che cosa pensa, come si vede lei quando aveva 14 anni? Le fa tenerezza quel ragazzino? Che cosa? Beh, ero molto stupido, però sì, è normale che si fanno diverse valutazioni, perché per certi quando penso di certe cose che ho fatto, ovviamente posso affermare che ero molto stupido, ero molto giovane, però è sempre, mio nonno diceva che è inutile di cercare di scrivere sull'acqua, perché non, cioè, è come cercare di tornare nel passato per cancellare qualcosa. No, io non ho rimpianti, io vivo serenamente, tranquillo, anzi cerco di utilizzare tutte le mie esperienze per non fare sbagli in futuro, per educare meglio mia figlia, per formare in maniera onesta la mia vita familiare di oggi e per fare parte di società occidentale con onestà e con dignità, affrontando questa mia nuova società che mi ha accolto con grande rispetto. E questo era Nikolaj Lilin su Educazione Siberiana. Lo ricordiamo, l'intervista era stata realizzata nel 2009, quando appunto era uscito il libro, da cui poi è stato tratto il film. Poi Nikolaj Lilin ha continuato a fare lo scrittore e ha scritto altri tre romanzi, Caduta Libera, Il Respiro del Buio e l'ultimo, Storie sulla pelle, tutti pubblicati da Einaudi. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.